ancora ce l'ho nei polmoni, l'odore di fieno e letame, dell'erba tagliata di fresco, dell'olio, del vino e del pane. Ancora ce l'ho nella testa, il verso di vacche e maiali, i grilli, le notti d'agosto, le feste tradizionali. Ancora ce l'ho nella pelle, il senso dei chicchi di grano, del vento pungente d'inverno, del frutto che cade dal ramo. E ancora ce l'ho appeso al cuore, chi fatica tra la magese, chi lavora tanto per poco e i conti alla fine del mese. Ma io che non ho mai avuto ferite né calli alle mani, e non avrò mai quell'odore di stalla, di terra e sudore. Chissà se saprò mai davvero che cos'è l'amore. Ancora ce l'ho dentro gli occhi il verde della primavera, il bianco del latte al mattino, il rosso d'estate la sera. E ancora ce l'ho nella pancia i racconti del focolare, la breccia di Porta Pia, le bombe, la morte e il dolore. Ma io che non ho mai saputo quanto è duro grattare la terra, non so la paura e la fame, vecchie compagnie di guerra. Chissà se saprò mai davvero che cosa è la vita. Ma non dimenticherò mai che il sangue in fondo alle mie vene è figlio di immenso coraggio, mille pene. E anch'io che non ho mai avuto ferite né calli alle mani, e non avrò mai quell'odore di stalla, di terra e sudore. Per sempre saprò quanto costa la vita e l'amore.